Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadore in regia, in una puntata con, potete immaginarlo, molti temi da trattare, perché chi l'ha detto che l'estate non c'è niente da dire o da raccontare di temi? Questa settimana soprattutto ce ne ha lasciati sul piatto tantissimi, anche di cronaca, perché temi da trattare tra piste e campi da calcio. Ieri sera abbiamo visto la prima Inter dietro che però si scopre ogni giorno di più, forse l'Inter di Milito. Ci saranno ovviamente le piscine mondiali con i risultati di oggi, con la saga dei costumi che prosegue, che interessa molto gli ascoltatori, anche me personalmente devo dire. Però teniamo, come abbiamo fatto ieri, il basket come titolo di apertura, un po' perché è venerdì e come sapete è ormai diventata una piacevole abitudine quella del basket al venerdì. Un po' perché un'intervista a Marco Bellinelli, neo giocatore dei Toronto Raptors, onestamente io non l'ho né vista né sentita da nessuna parte. Allora ci pensiamo noi, perché proprio questa mattina, proprio un paio d'ore fa, Michaela Nasca ha intercettato e intervistato il nuovo giocatore dei Toronto Raptors. Sentiamo cosa dice. Raggiungi Bargnani ai Toronto Raptors, forse è questo il vero inizio per te della carriera NBA? Diciamo che sì, sono molto contento. Per me sono stati i primi due anni un po' difficili, soprattutto il primo. L'anno scorso un po' sono riuscito comunque a farmi vedere, a dimostrare quello che posso dare. Quest'anno ho la fiducia dei Toronto Raptors e questo mi rende molto felice. Il presidente Colangelo ha detto che avrai molte più opportunità che a Golden State. Potresti essere la guardia titolare? È quello che spero, nel senso, cioè, diciamo che sì, è una cosa che mi piace che il presidente abbia detto queste cose. Io sicuramente vado con l'idea comunque di migliorarmi sempre, di allenarmi duramente e di essere utilissimo per questa squadra. Toronto è la squadra più internazionale dell'NBA, praticamente una squadra europea. Come te la immagini? Beh, sicuramente sarà, e spero sarà veramente una cosa fantastica, giocare con il mio compagno di squadra Andrea Bargnani, giocare con Turkoglu, giocare con Nesterovic, gente che comunque non avrei mai pensato, magari ho sognato di giocarci assieme, mentre adesso tutto questo si sta realizzando, quindi sono molto contento. E ieri con Bargnani cosa vi siete detti? Niente, abbiamo cominciato comunque a chiamarci compagni di squadra, tutto quanto, insomma una cosa un po' simpatica, tutti e due comunque siamo contenti. Siete contenti di questa nuova esperienza insieme? Sì, certo. Prima di Toronto c'è la nazionale, dal 5 agosto contro una Francia fortissima e un europeo da inseguire. Come state? A che punto siete? Diciamo che siamo a buon punto, adesso ci manca ancora, prima di affrontare la partita contro la Francia, ci manca ancora una partita contro il Canada che si svolge la sabato, però diciamo che siamo a buon punto, ci stiamo allenando tutti i giorni, duramente, per perseguire il nostro obiettivo che è comunque quello di qualificarci per questo europeo, sicuramente pensando alla Francia in primis per poi pensare anche alla Finlandia, quindi siamo carichi e speriamo che tutto vada bene, di fare comunque il nostro massimo per riuscire a qualificarci queste europei. Il tuo passaggio a Toronto potrebbe essere anche una motivazione in più per te, ma anche per tutto il gruppo azzurro. Diciamo soprattutto per me, ma anche sicuramente per i miei compagni di squadra. Mi trovo molto bene con loro, hanno sicuramente le loro cariche, insomma, per queste qualificazioni. Io sicuramente sì, avrò una spinta in più avendo cambiato squadra, essendo così carico per questa nuova esperienza, quindi sono molto contento, molto positivo. Questo era Marco Bellinelli con Michaela Nasca, il primo Bellinelli dei Toronto Raptors. Il basket sarà uno dei temi della prossima settimana, lo dice la cronaca, lo dicono le date di questo doppio confronto con la Francia, importantissimo, Francia e Finlandia come chiave per andare agli europei di settembre, per la nostra Italia un po' americana con Bargnani e Bellinelli, appunto. Ricordo le date: 5 agosto a Cagliari, 14 a Pau per il ritorno sempre contro la Francia. E una delle notizie di giornata è che il più forte giocatore della Francia, cioè Tony Parker, come ben conoscete, giocatore di San Antonio Spurs, è stato richiamato proprio dalla franchigia texana per verificare quella caviglia un po' malmessa che non gli ha consentito di allenarsi come si deve, quindi è stato richiamato in America, dovrebbe tornare in tempo, ma dopo il nome di Tony Parker non può che esserci un punto interrogativo per quanto riguarda il suo impiego contro l'Italia. Per noi onestamente non è poi una notizia così cattiva. Notizie cattive invece sono arrivate per Mutu questa mattina, perché il Tribunale Arbitrale dello Sport, il TAS di Losanna, ha respinto il ricorso di Mutu, che dovrebbe pagare una cifra spaventosa al Chelsea per la questione del 2004, la sua strana risoluzione del contratto, positività alla cocaina, eccetera. Quella vicenda probabilmente la ricordate. Ebbene, dovrebbe pagare al Chelsea, secondo il TAS, ben 17 milioni di euro. Chissà come va a finire. Però sono altre notizie che ci interessano oggi, perché una delle notizie della mattina attesa è quella che arriva dal Mugello, dove c'è Schumacher che sta girando su una F2007. Secondo me questa è la notizia della settimana, forse dell'estate intera. Vogliamo continuare a parlarne anche insieme a 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, ma soprattutto vogliamo parlarne con una penna illustrissima come quella di Pino Allievi, inviato storico della Gazzetta dello Sport. Ciao Pino, grazie. Ciao, grazie a voi. Dunque, già in pista Schumi con la F2007 del suo amico collezionista, che è quella del mondiale di Kimi Raikkonen. Pino, un ritorno affascinante quanto rischioso, lo dicono tutti, rischioso per la Ferrari, forse per Schumi, inebriante invece per quelli che oggi Sandro Veronesi sulla Gazzetta chiama il gatto e la volpe, no? Mosley ed Ecclestone, che trovano un diamante fra le macerie, i rottami della Formula 1. I ritorni sono sempre affascinanti, i ritorni nello sport, perché tu ti appassioni per anni a un personaggio, lo ami, lo adori, viene idolatrato e poi te lo vedi sfuggire dalle crisi della vita, che sono poi quelle dell'età. Sì. Poi questo personaggio ritorna, dimentichi l'età e riprendi a fare il tifo. Insomma, è tutto molto affascinante. Purtroppo poi l'età va avanti, Schumacher era più di 40 anni già quando si ritirò, non era poi così più veloce di Alonso e di Raikkonen. Oggi torna e spera di star davanti a un Raikkonen che nel frattempo si è terribilmente infiacchito, ed è un altro caso Adriano riportato nell'automobilismo. Sì, hai ragione. Ma la tua personale opinione qual è, Pino, su questo ritorno? La personale opinione, dunque, ci sono due aspetti, anzi tre. Il primo, per la Formula 1 è una grande festa. Dopo tante polemiche, tante cose disgustose, finalmente si torna a parlare di automobilismo. Due, la Ferrari non aveva altre chance perché non aveva piloti di grande valore, cioè non c'era nessuno sul mercato da spendere subito in una squadra che, bene o male, l'anno scorso era ancora campione del mondo e quest'anno tenta disperatamente di conquistare la prima vittoria. Tre, la parte triste è che sì, Schumacher è sempre Schumacher e comunque è uno che non è riuscito a reinserirsi nel mondo civile, è uno che non sa cos'altro fare che correre, è uno che dal primo giorno in cui ha smesso di competere in Formula 1 è andato su un circuito a girare con i go-kart, poi ci ha provato con la moto, poi non vedeva l'ora che la Ferrari gli facesse provare la Formula 1, poi cercava ancora qualche libidine con la Ducati GP. Sì. Sì. È una grande passione, ecco, io preferisco tipi come Lauda che quando smettono dicono basta e tornano solo per esibizioni folcloristiche. Sì. Un Lauda che comunque è riuscito a realizzarsi in altri campi, a differenza di tanti altri campioni, ma non ne faccio una colpa, sia ben chiaro, che invece restano monotematici tutta la vita, aggrappati alla loro gloria e al loro sport. Restano degli eterni Peter Pan. Detto questo, anche Nicky, io sono d'accordo con te, sono contrario ai grandi ritorni, a questa incapacità di crescere, di essere diversi. Anche il grande Nicky tornò, però, e tornò vincere. Tornò a 30 anni. Sì. Cioè, tornò con delle motivazioni molto valide, tornò vincente, tornò integro esattamente come era integro prima, però il fascino di Lauda è che a un certo punto decise di fare qualcosa nella vita civile e oggi i suoi aerei volano in tutto il mondo. Certo. Cioè, è uno che ha avuto un grandissimo successo. Sì. Io non so cos'altro abbiano fatto Maradona, Cassius Clay e Schumacher al di fuori dell'investire nel loro sport. Ripeto, non è una colpa, è una grande passione, una passione esclusiva, va molto rispettata. Io dico che a una certa età bisogna anche pensare a fare qualcos'altro, sì, ad affermarsi in qualcos'altro e a prendere eventuali ritorni come questo, pieni di fascino, prenderli come un divertimento. Invece Lauda torna Schumacher torna esclusivamente per stare avanti a Raikkonen e dimostrare che la Ferrari aveva fatto una scelta sbagliata 2 anni fa. Sono d'accordissimo con te. Tra questi grandi ritorni mettiamoci anche quello recentissimo di Lance Armstrong, no? Sono tutti esempi che vanno nella stessa casella, probabilmente. Esatto. Perché in tutti gli sport il fuoco è un po' difficile spegnerlo. Resta da domandarsi quando un pilota smette di essere un pilota. Probabilmente mai. Probabilmente mai, mai, però ci sono piloti che capiscono che a un certo punto dovrà smettere. Detto questo, io non penso che Schumacher non sarà competitivo, anzi, è un atleta incredibile, di una serietà, di una addirittura morale fuori dal comune, è uno che si è sempre preparato fisicamente, per cui tornerà certamente, non dico al massimo livello, ma all'80% delle condizioni. È un pilota che fa squadra, è un pilota che ha una vasta conoscenza tecnica, sa gli indirizzi da dare agli ingegneri, quindi sicuramente andrà bene. Poi per andare bene in Formula 1 significa anche dover andare tante volte oltre il limite. Non so se lui ci sia preparato, lo è stato per tanti anni, oggi un uomo affermato, 2 figli, una moglie, insomma l'età ti comporta poi tanti aggravi e tanti pesi che sono poi i pesi della vita. Comunque, secondo te sarà solo una parentesi, no? Perché io ho già degli ascoltatori che inviano sms, ma se andasse dal suo amico Ross Brawn, ma se decidesse di continuare, ma tutto se... con uno come Schumacher, ci sta anche che voglia sfidare il tempo, cioè, chiariamo una cosa, Fangio ha vinto mondiale a 46 anni, Mansell ha vinto a 41, può fare di tutto, cioè al di là dei 4 fenomeni che ci sono oggi in Formula 1 c'è spazio anche per uno come Schumacher che magari possa andare anche un po' più piano di loro. È da vedere se poi lui accetta il fatto di essere secondo o terzo. Sì. Schumacher vuole solo essere primo, anche se giocasse a figurine con suo figlio. Non si accontenta di nulla di meno che sia il massimo possibile. Probabilmente non ha nemmeno trovato uno sviluppo stimolante, uno sbocco di carriera che fosse stimolante, perché quel ruolo di consulente un po' vago e molto blando della Ferrari evidentemente non lo appagava, forse non era nemmeno graditissimo in quel ruolo. Ma il campione è sempre egoista, che sia Schumacher o che sia Maurio, che sia Ronaldinho, sì. Pensano esclusivamente a se stessi, cioè pensare di riciclare Schumacher in un gioco di squadra è pura follia. Sì, cioè, certo. È tutta gente che lavora per se stessa, quindi era assurdo pensare che Schumacher potesse diventare il consigliere particolare dei piloti a Ferrari. Primo perché i piloti a Ferrari non sono disposti ad accettare molti consigli. Immaginati Raikkonen che già ha detto: ma che bello che arriva Schumacher, come sono contento. Ma Raikkonen non lo sopporta Schumacher, non lo sopportava neanche quando correva, ma viceversa, cioè sono tutti i veri campioni, sono egoisti. Sostelle, e non certo. Sono neanche poi tanto simpatici. Certo. Senti Pino, per chiudere, si parlava di rischi anche per Schumacher, per la Ferrari stessa, che Schumacher torna con una macchina che non è un granché, non è così competitiva, anche se, tolta l'Ungheria che è un circuito molto particolare, i progressi di Ferrari e McLaren con i quattrini investiti sono evidenti, e dall'altra parte c'è una Brawn dominatrice la prima parte della stagione che sembra in calo, sembra aver già raschiato il fondo del barile anche economico. Sotto che luce vedi la prosecuzione del Mondiale da Valencia con Schumacher in poi? Guarda, non cambia molto, perché non c'è da pensare che Schumacher possa andare più forte di Massa, lo dico realisticamente, già non ci andava quando doveva andare, ossia nel momento in cui si è ritirato. Adesso presumo che dovrà andare un po' più piano, quindi però potrà dare delle indicazioni un po' forse più approfondite, dovute all'esperienza, tante cose, a una sensibilità non comune che ha sempre avuto Schumacher. Quindi da Schumacher mi aspetto delle corse certamente dignitose. Se la Ferrari dovesse veramente aver compiuto dei progressi, certamente sarà in grado anche di far vincere la macchina, esattamente come l'avrebbe fatto a vincere Massa. Quindi tutti hanno da guadagnare da Schumacher, tutti hanno da perdere. La Ferrari, perché se per sbaglio Schumacher dovesse andare piano, e non credo, tutti diranno: ah, ecco questa Ferrari che dopo l'era di Schumacher, Todd e Ross Brawn non riesce più a fare una macchina. Schumacher, perché se dovesse andare piano, beh, verrebbe un po' compatito. Ci ha provato, però. Non ce l'ha fatta, che peccato, però è stato molto bello il gesto e tutte queste banalità del caso che si dicono. Certo. Lo sport, perché i tifosi resterebbero con l'amaro in bocca, insomma, questi ritorni sono molto rischiosi a certe età. Non detto questo, io penso invece che Schumacher non potrà che fare bene, far bene a se stesso, perché placa un po' questa sua ansia di competizione, vive solo per quello, far bene alla Ferrari, perché comunque porterà metodo, potere decisionale immediato, certo, e indicazioni come non hanno fatto Raikkonen e Massa, per uno per problemi autistici, l'altro perché era un fatto di esperienza, ma sa meno esperienza di Schumacher, e comunque io vedo questa operazione tutto sommato più positiva che negativa. Sono d'accordo con te, grazie Pino, buon lavoro. Grazie molte anche a voi, buona grazie giornata. Davvero, un piacere. C'è un sacco di messaggi, 349-238-6666, di segno molto diverso, ma che testimoniano e trasmettono comunque una grande attenzione, grande interesse che ha fatto, il grande scalpore che ha fatto questo ritorno di Michael Schumacher, che oggi si concretizza, sebbene praticamente di nascosto, test chiusi, privatissimi al Mugello, appunto con la macchina 2007, che è stata quella che ha portato Kimi Raikkonen al titolo, come ricorderete. Ad esempio, Leo da Modena: ma quanti di voi avrebbero scommesso sul podio di Armstrong al Tour? Io scommetto con voi che Schumi vi sorprenderà tutti, lui è sicuramente il migliore di tutti, scrive Leo. Però sono passati tanti anni, però c'è una macchina che non è il massimo della vita. Altro messaggio: ma se Schumacher facesse almeno come Armstrong e decidesse di fondare una scuderia come Ross Brawn il prossimo anno, non sarebbe affascinante? Sì, lo sarebbe, come affascinante questo ritorno, sebbene molto rischioso, perché appunto, come dicevamo ora con Pino Allievi, molte insidie, molti rischi anche sul piano dell'immagine si annidano in operazioni di questo tipo. Antonio da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. E poi niente, devo dire anch'io che mi hanno rubato la parola, i messaggi, dicendo: se Armstrong è arrivato terzo a un tour, oddio, speriamo siano puliti questi podi. Ma se, perché è l'inciso che si fa sempre quando si parla di ciclismo. Comunque. Speriamo se no, ma perché no Schumacher, che comunque sia da un input vero e proprio a quei box che secondo me hanno perso un po' la bussola, secondo me. Sì. Io ho lì. Pronto? Dica. Io ho la netta sensazione che non è stato neanche tanto il volere della Ferrari di far rientrare Schumacher, ma di tutta la Formula 1, probabilmente anche Ecclestone, che hanno detto alla grande, ma loro hanno trovato, l'ho detto prima, no? Loro hanno trovato un diamante camminando per strada, hanno trovato un gioiello prezioso per terra, perché loro, senza spendere un euro, come ha detto Lauda, dovrebbero pagargli metà dell'ingaggio a Schumacher. Questi. Loro in un momento di enorme difficoltà della Formula 1 hanno trovato un polo di interesse positivo e non di polemico che non potevano attendersi per strada, quindi loro sono senz'altro i più contenti di tutti e i meno preoccupati di tutti. Che Schumacher vada o non vada è comunque una grandissima notizia. L'interesse della Formula 1 torna intorno a... Si torna a parlare di macchine, di sport, e di Schumacher che ritorna. Per loro è stato il massimo della vita il ritorno di Schumacher. Non c'è nessun dubbio su questo, no Antonio? Io penso che comunque sia, alla fine, poi chiudo, mai come Schumacher avere un collaudatore in squadra così. Cioè, io penso che lui sia l'ingegnere in macchina, assolutamente. Sì, infatti ho anche un messaggio. Ne sono convinto, loro prepareranno una gran... magari andrà un po' meno, ma sarà lui però è proprio il personaggio giusto per una squadra in difficoltà. Sai cosa faccio? Le faccio rispondere, le faccio dare un'opinione da un pilota vero, uno che di sfide se ne intende, che intende come nessuno, io credo, uno che non ha mai smesso di sfidare qualunque cosa, le sfortune comprese. Alex Zanardi, buon pomeriggio, grazie Alex. Buon pomeriggio a voi. Il ritorno di Michael, c'è chi dice fa bene, c'è chi dice tornerà ad essere super, c'è chi dice comunque aiuterà la Ferrari, c'è chi dice rischia, c'è chi dice fa bene, c'è chi dice fa male. Tu che dici? che sicuramente alla Formula 1 sta già facendo bene, perché siamo qua a parlarne e in un momento in cui francamente le polemiche dominavano la scena, il ritorno di Michael fa sì che la gente ricominci a parlare di sport, di quanto eccitante è il ritorno di un pilota che ha fatto delle cose meravigliose e che probabilmente sarà in grado di stupire ancora tanti, perché se siamo tutti così sintonizzati vuol dire che tutti quanti coviamo un'aspettativa molto alta nei confronti di questo ritorno. Questa evidentemente è una, chiamiamola, responsabilità, e quindi guardandola dal suo punto di vista, al quale io ovviamente come sportivo mi sento molto vicino, io tendo a vederla dal suo punto di vista, devo dire onestamente mi ha sorpreso, ma ne sono estremamente felice, perché Michael ha dimostrato che sa anche ragionare col cuore, poi sicuramente lo sincronizza il cervello, perché oggi mentre noi parliamo lui è già là che si allena, è già là che si prepara, insomma sa essere soltanto il primo della classe, anche quando la maestra gli dà due divisioni da fare a casa come esercizio, lui ne fa 20 per essere sicuro che poi il giorno dopo è preparato ancora di più del giorno prima, e questo è il suo modus operandi. Detto questo, è evidentemente un grande rischio per lui, ma viva Dio, insomma, ha preso questa decisione, perché io credo che la vita non si può vivere soltanto per lasciare dietro di sé il miglior ricordo possibile e immaginabile, o perlomeno questo non deve essere ciò che ci condiziona nel nostro agire. Io credo che è bellissimo ogni tanto rimettersi in discussione, prendersi dei rischi colossali, anche di come posso dire, di rovinare quanto di buono abbiamo già fatto, perché è giusto e sacrosanto nella vita accontentarsi di quello che si ha, ma ambire a sempre qualche cosa di più. Certo. Lui in questo momento lo sta facendo, è una cosa bellissima, a mio avviso molto molto umana. Forse abbiamo dovuto aspettare che Schumacher compisse 40 anni per vedergli fare un gesto del genere. Infatti, ma... bravo, è stato il più grande gesto di generosità sportiva, se me lo consenti, che Schumacher ha fatto in tutta la sua carriera da straordinario cannibale. Ma sul piano tecnico se ne parla molto, Alex, quali sono le reali difficoltà che Schumacher può trovare? È chiaro che lui è sceso da una macchina nel 2006, sono passati 3 anni che sono tantissimi per un ambiente che viaggia a questa velocità di evoluzione tecnologica. Quali sono le reali difficoltà di Schumi? Ma difficoltà ce ne sono, è indubbio, anche perché comunque in Formula 1 molto spesso cadiamo nel luogo comune di criticare il pilota, di dire ah, è finito, non ne ha voglia, è una mezza calzetta. In realtà in Formula 1 non è assolutamente così ed è ingiusto a usare questi termini nei confronti di chiunque, perché è un livello altissimo dove ciò che viene premiato non è la bravura ma piuttosto l'eccellenza, e quindi Schumacher non va a far la garetta contro il sagrestano, il parroco, la perpetua, il campanaro. Schumacher va a fare una gara e va a chiudere un campionato con gli altri che sono già a regime, che sono già caldi, che queste macchine le conoscono, e lui deve sicuramente recuperare. Detto questo, attenzione, stiamo parlando comunque di un pilota che nella propria vita non ha mai prodotto nient'altro che pure eccellenza, quindi sicuramente questi ritmi saprà ritrovarli molto rapidamente. C'è qualche cosa di nuovo in questa Formula 1 che non faceva parte della Formula 1 che conosce lui, ma il grosso più o meno è ciò che lui ha masticato per tutta la sua vita, quindi se c'è qualcuno che può rapidamente ritrovare certi ritmi e riuscire ad esprimersi di nuovo ad un livello che poi alla fine è dettato dal talento di cui sei dotato, sì, e nel caso di Schumacher questa non è un'incognita, questo è Michael Schumacher. Sì, sì, sì. Non so se Schumacher farà bene o male, però so che non mi perderò la gara di Valencia. Dopo il primo Gran Premio non li ho più guardati, scrive Alex da Milano. C'è anche un messaggio per te, Alex. Zanardi è una delle persone più belle che io abbia mai ascoltato. Grazie Zanna, sei esempio e modello per i normali. Scrive un ascoltatore. Senti, ma io ti faccio ancora una domanda, ti voglio chiedere questo. So già la risposta. Quando un pilota smette di essere un pilota? Credo che nel caso di una persona come Schumacher. Questo può avvenire anche perché comunque è logico farlo, è logico a un certo punto dire basta, chiudiamo il sipario, nella vita di un uomo di 40 anni è giusto che ci siano altre cose, che ci sia gli amici, la famiglia, i figli, il cane, la bella casa, eccetera. E andare avanti in Formula 1 volendo essere competitivi significa mettere questa attività di fronte ad ogni cosa in ogni momento della tua giornata. Sì. E quindi posso capire che Schumacher questo non fosse più disposto a farlo. Unitamente a questo c'era un diavoletto che ce l'aveva sulla spalla, come può essere il Willy Weber della situazione, che gli dice lascia stare, dai da fare, rovini solo la tua immagine, perché comunque lui vuol continuare a vendere i gadget targati Michael Schumacher da qui all'eternità. È chiaro, è chiaro. E quindi con una visione non sbagliata, attenzione, molto lungimirante da un punto di vista commerciale, dice tu devi dietro di te lasciare un'immagine assolutamente immacolata. Questo è un Schumacher che ha giocato a pallone per 2 anni, si è divertito con le moto, poi ha cacciato una capocciata che ha detto aspetta che facciamo qualcos'altro, ha giocato con i suoi figli, ha portato il suo cane a fare i suoi bisogni e adesso la sua vita comincia a stargli stretta. Caspita, questa opportunità arriva in un momento perfetto. Detto tutto questo, io mi aspettavo che ragionasse con la testa e dicesse no, grazie. E invece si è lasciato vincere dal desiderio di far bene, può a mio avviso fare molto bene, e bisognerà vedere che cosa la Ferrari è in grado di dargli come competitività di auto. È chiaro, però è chiaro. Schumacher ha dimostrato che alla fine il suo ritiro era più in funzione di dire è giusto farlo, sì, ma non... Ha lasciato col cervello ed è tornato con il cuore. Il senso è questo. Alex, ti ringrazio, a prestissimo. Grazie davvero. Grazie, ciao ciao. Quando torniamo abbiamo ancora un paio di ascoltatori, poi dobbiamo parlare anche di calcio e dell'Inter, che ieri sera doveva nascere l'Inter, la prima Inter di Eto'o, invece continua ad essere ed è sempre di più l'Inter di Milito. No, si parlava di problemi, di rischi possibili per Schumacher, di incognite per Schumacher in questo ritorno. Vi devo leggere anche queste parole di Antonio Dal Monte, fisiologo biomeccanico, come ricorderete già direttore dell'Istituto di Scienze dello Sport del CONI, il quale dice: a distanza di questo tempo e con la sua età, il dubbio maggiore sono le accelerazioni laterali che gravano sui muscoli del collo e che devono sopportare un peso fino a 35 kg. Si tratta di questo perché per me non c'è un dubbio di capacità di guida, non c'è un dubbio sui tempi di reazione né di colpo d'occhio e velocità di risposta. Queste le parole di Dal Monte. Giorgio Bologna, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, bisogna che mi fermi perché sono in macchina, un sì. Attimino che mi fermo qui. Senta, io sto ascoltando per radio, però tutti stanno tessendo le lodi, entusiasti del ritorno di Schumacher, eccetera, eccetera. Però io dico una cosa, senta, Alonso vinceva quando aveva la macchina che andava più forte delle altre, sì. Hamilton vinceva quando aveva la macchina più forte delle altre. Io credo che adesso la Ferrari non abbia le macchine che corre più forte delle altre. No. E quindi andiamoci piano col dire che adesso Schumacher porterà eccetera eccetera, perché io ho pensato che il 70-80% del risultato di un gran premio dipende dalla macchina, sa? Che Schumacher sia un grande sicuramente, però lui ha un'attività sportiva che è legata ad un mezzo meccanico, non è come un calciatore, un ciclista, no, ma soprattutto non è Harry Potter. Bravo, esattamente bravissimo. Come Mourinho non è Harry Potter, non ha la bacchetta magica, non può trasformare. No, su questo non c'è dubbio, però insomma una Ferrari che è partita col freno a mano, no, in questo mondiale, come sapete bene, che comunque sta crescendo, che ha ridotto le distanze, Ferrari e McLaren hanno ridotto le distanze, almeno a giudicare dagli ultimi due Gran Premi, rispetto a quelle che sono le due macchine da battere in questo momento, non c'è alcun dubbio, la Brown un po' in calo, anzi in vistoso calo, e la Red Bull che onestamente è un capolavoro di progettazione e in questo momento è veramente la macchina da battere. Però insomma la Ferrari può chiedere a Michael Schumacher, qualcuno prima parlava di supercollaudatore, può chiedere a Michael Schumacher alla sua esperienza, alla sua sensibilità, al suo talento da fuori classe anche utili indicazioni per sviluppi futuri. Insomma sono tanti i punti che possono permettere, punti vincenti di questa scelta, almeno in prospettiva, almeno nell'ipotesi, poi vediamo alla prova dei fatti. un risultato è già stato acquisito, secondo me, e rimane il risultato di qui sopra del gatto e della volpe, cioè di Mosley ed Eccleston, perché ho l'impressione che nessun gran premio delle ultime 2, 3, 4 stagioni, poi vedremo i dati, sarà seguito come verrà seguito il Gran Premio di Valencia nel fine settimana del 21, 22, 23 di agosto. Sergio Genova, buongiorno. Buongiorno a lei, sono Senta. Senta, io volevo fare una bellissima premessa e poi una considerazione. Sì. La premessa è questa, che visto e considerato che la Formula 1 da un paio d'anni a questa parte è scappata di mano praticamente a tutti. Sì. Perché è scappata di mano a livello gestionale, ma anche ai team che sono praticamente non sono stati all'altezza nel contrastare questa gestione. Quindi il ritorno di Schumacher, a parte che secondo me sarà sicuramente valido perché si è sempre preparato, una persona scrupolosa, eccetera, eccetera. Secondariamente io ho maturato un'idea, non so se lei sarà d'accordo, che sotto sotto, velatamente, ma neanche più di tanto, c'è un pensierino a prendersi l'ottavo titolo mondiale per un altro anno. Lei che ne dice? Grazie. No, aspetti, non ho capito. Non ho capito, no, la domanda. L'ottavo titolo mondiale, cioè Michael Schumacher sulla che possa rimanere in Ferrari. Secondo me, detto che farebbe bene a tutto l'ambiente. Ma guardi, l'anno prossimo arriva Alonso, però, Sì, sì, ma secondo me Alonso e Schumacher, secondo me un po' per come operazione immagine, un po' perché farebbe bene ormai a tutto un ambiente che ormai è quasi deragliato. Secondo me è un tentativo neanche più tanto velato. Di un tentativo di riprendersi un titolo che praticamente gli è quasi stato scippato perché l'hanno fatto dimettere un anno prima. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei, Sergio. Non lo so se i pensieri di Michael Schumacher possono arrivare così avanti all'anno prossimo, al futuro, questo lo sa soltanto lui, io credo. Rimane il fatto che appunto per l'anno prossimo sulla Ferrari ci sarà certamente Alonso. L'altro volante vedremo a chi andrà, ci auguriamo tutti a Felipe Massa. Io saluto e ringrazio Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Che il mondo dei motori lo conosce benissimo, quindi prima di parlare di Inter partirei da questo e da una tua sensazione, impressione, un tuo pensiero sul ritorno dell'anno. Ma guarda, io diffido sempre dai grandi rientri, ma non perché non ce la possano fare o che... ma perché a me piace avere il ricordo, certo, non so, dello sportivo per quello che ha fatto, diciamo, nella sua prima vita sportiva. Il resto mi sa sempre di qualcosa di riscaldato, benché poi a volte i ritorni funzionino. Ecco, pensiamo a Michael Jordan, per esempio, eccetera. Però io resto perplesso. Ma Michael Jordan però funzionò la prima volta, perché sì, insomma, primo, era un giocatore, certo, nel pieno della carriera, si ritirò per motivi strani, certamente, misteriosi, eccetera. Mentre poi Michael Jordan ci ha provato una terza volta e lì fu onestamente molto triste, come quasi sempre con i grandi rientri. Sono d'accordo, sì, infatti il primo fu positivo, gli altri no. Lui venne prima folgorato dal baseball, poi insomma. Però così, a me piace avere il ricordo di quello che sono stati, anche perché hai tutto da perdere, ma insomma al di là di questo, ecco, è una cosa personale. Detto questo, vabbè, vedremo, io non credo che lui possa essere già vincente fin da subito, insomma, poi si vedrà questo. Però non lo so se è la cosa che mi piace. No, sono d'accordo con te. Io sono sempre stato contrario ai grandi rientri, un po' come i sequel dei film, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 40, e ogni volta è peggio di quello precedente. È il vecchio teorema delle minestre riscaldate, per usare un luogo comune che vale nello sport come in ogni cosa. Minestra non male invece quella nerazzurra, che hai visto ieri sera. Si aspettava la prima Inter di Eto'o, dicevo prima, invece è la seconda Inter di Milito. Sì, una minestra che promette bene, diciamo, ecco, mancano ancora dei sapori, però mi sembra ben cucinata. Hai ragione, Milito in questo momento è il punto fermo, lui è già tirato a lucido, ma è un ottimo giocatore, insomma, io credo che non ci siano dubbi su Milito, perché Milito è un giocatore che può inserire in qualsiasi squadra, partecipa al gioco molto più di quanto creda molta gente, cioè non è soltanto un bomber, è uno che già ieri si è visto con i suoi movimenti, può facilitare inserimenti, manovre, insomma, io credo che darà delle soddisfazioni all'Inter. Quanto a Eto'o, era un allenamento, quindi non c'era alcuna aspettativa, quindi zero allarme, lui insomma lavorerà, vedremo se l'8 con la Lazio potrà essere già più pronto, però il potenziale è enorme, veramente si è visto ieri in alcuni momenti una squadra veramente notevole, proprio da come stavano in campo, da come salivano ad aggredire, insomma, vista dal campo in alcuni momenti si sono viste cose notevoli. Due giocatori estremamente intelligenti sul piano calcistico, Milito e De Toor, per questo che dico che secondo me saranno la coppia titolare, anche perché scrivi tu oggi, peraltro si sa, Mourinho sta lavorando su questa formula, due attaccanti e del rombo. Rombo che ha un punto interrogativo che sta nel vertice alto e che sul mercato si cerca di colmare. È evidente questo punto interrogativo? Ma senti, io su questo sono un po' perplesso. È vero, l'Inter cerca questa alternativa a Stankovic, diciamo una riserva a Stankovic, ecco, non già una vera alternativa che possa togliere Stankovic da quel ruolo, almeno da quello che sappiamo in questo momento. Non lo so se c'è questa necessità, francamente, perché io credo che via Stankovic trequartista l'Inter possa anche giocare con altre formule, un 4-4-2 oppure due uomini davanti alla difesa, diciamo una linea 3 e una punta sola, con magari, non so, Thiago Motta dietro Milito, un po', se il paragone è concesso, un po' come Torres e Gerrard nel Liverpool. Insomma, sì, ci sono varie, perché poi alla fine per prendere un trequartista, per prenderlo, ma dà un vero valore aggiunto. Io credo che si possa mettere tranquillamente in banca quei soldi che sono arrivati dal Barcellona e aspettare tempi e stagioni migliori dove ci sono giocatori più appetibili, perché poi sai, i nomi sono quelli. Deco può servire davvero a questa Inter? Io ho i miei dubbi. Anch'io. Snyder, Aymar, Rakitic, Aymar, cioè non è nessuno di questi porta valore aggiunto a mio avviso. Siccome poi la rosa va sfoltita, la mia idea è andare con Stankovic e eventualmente provare vari moduli. Sai, con Eto'o puoi giocare anche col tridente, no? C'è Balotelli che ora tra l'altro, insomma, bisognerà vedere come riuscirà ad assorbire l'arrivo di Eto'o, se lo vedrà come un concorrente che lo spedisce in panchina o come uno stimolo per ritrovare nuove motivazioni. Beh, intanto è un grande giocatore che ha vinto due Champions League segnando in finale, quindi Eto'o può dire, senti ragazzo, quando fai quello che ho fatto io ne riparliamo. Certo, fermo restando che possono giocare insieme, sai, un bel tridente. Eto'o al Barcellona giocava spesso in fascia, dalla fascia ha fatto il primo gol nella finale di Champions, convergendo al centro, quindi insomma è un giocatore duttile ed esperto. Balotelli, se si adegua a questo livello, che è molto alto, con cui insomma credo si possa fare anche un tempo. Quindi io questa esigenza non la vedo, non so, mi sembra che anche all'Inter non la vedano con grande ansia. Sì. Quindi è più Mourinho che spinge per la sua idea, insomma, il suo progetto originario è quello di avere comunque un giocatore di queste caratteristiche che all'Inter onestamente per questioni proprio di caratteristiche dei giocatori manca. Alessandro, grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Grazie, a prestissimo. Alessandro, ciao, Pasini, inviato al Corriere della Sera. Ed eccoci ai mondiali di nuoto, andiamo subito a Roma. Nissan City Cars, welcome to simplicity. Vi presenta Roma 2009, mondiali di nuoto. Ciao Dario Ricci, nostro inviato laggiù. Buongiorno Carlo, anzi buon pomeriggio. A tutti gli amici in ascolto. Cosa è successo stamattina? Sono successe tante piccole grandi cose per l'Italia del nuoto, perché partiamo dalle buone notizie, dalla Silvia Di Pietro, 16 anni, in semifinale col nuovo record italiano nei 50 farfalle donne, ma poi c'è soprattutto la vicenda staffetta, la 4x200 stile libero con il deludente tempo di qualificazione, l'ottavo tempo, che di fatto è costato il posto a Max Rosolino, il più deludente nella prova di questa mattina. Già ufficializzata la formazione per il pomeriggio: Belotti, Maglia, Brembilla e Magnini. E insomma, potrebbe essere questo veramente il passo d'addio per Max Rosolino, che è uscito dalla vasca provato, deluso, poi forse lo sentiremo, insomma, ma... Sì, lo sentiamo subito, facciamo così, sentiamo subito cosa ti ha detto dopo questa staffetta negativa. Ho fatto un errore che non dovrebbero fare neanche i bambini alla prima esperienza regionale, perciò mi sono aperte le braccia, sono caduto proprio come... Una palla, insomma, però per fortuna gli altri hanno fatto bene, ringraziamo loro. Non credo che ci sarò io, onestamente, perché credo che soprattutto Maglia si sia guadagnato il posto in finale, perciò questa volta credo che veramente il giudizio potevo fare sicuramente meglio, perché veramente ho sbagliato, però ha fatto meglio lui. Questo era Rosolino, ma sentiamo anche cosa ha detto Castagnetti subito dopo la frazione, lasciando aperta una porta per la finale di Rosolino, porta che invece poi si è richiusa. Sentiamolo. Vabbè, vedete, lui è un campione di razza, perché io gli avevo proposto di non fare la batteria e di metterlo direttamente in finale, perché lo vedevo un po' in difficoltà. So che potrebbe essere una delle sue ultime gare, quindi ci tenevo che fosse presente a Roma in staffetta. Adesso comunque voglio parlare con i ragazzi e vedremo. Quindi ci sarà Max? No, beh, no, sta a me in questo momento, sta ai suoi compagni. Poi non è neanche detto questo, sta a me nella realtà. Se devo guardare l'orologio, ripeto, chiaramente dovrebbe essere maglia il quarto. Se devo guardare il rispetto che si deve avere alla carriera di un campione come Massimiliano, visto che non è che lottiamo per una medaglia, potremmo anche stabilire di fargli fare la gara. E invece non sarà così, molta tristezza per la prima volta in questo mondiale realmente nella voce di Castagnetti, a Dario. Eh sì, direi proprio di sì, tra l'altro uno squarcio di sincerità, no, da parte del nostro CT, che comunque è sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni, e praticamente con queste affermazioni ci ha un po' rivelato anche quelle che sono le dinamiche di questo spogliatoio. Chiaramente Rosolino, palmarès pesante, 60 medaglie internazionali, qui a Roma cercava la 61esima, volto, immagine, emblema del nuoto azzurro, credo che sia stato lui stesso a farsi da parte, proprio perché non può accettare, Max, se lo conosciamo bene, l'idea di correre comunque una finale per far passerella, no? Per salutare il suo pubblico. Chiedeva di più a se stesso, non è riuscito a darlo in questa staffetta di questa mattina, tra l'altro anche con un cambio a rischio con maglia, lo abbiamo rivisto proprio dagli studi della Omega, dei responsabili del timing, veramente è mancato pochissimo perché l'Italia non venisse squalificata, insomma, giornata che è cominciata con questa notizia veramente particolare da gestire per tutto il clan azzurro. Per fortuna che poi c'è Alessia Filippi che invece ci tira su di morale, caro. Cioè? Perché finale degli 800 stile libero conquistata di gran carriera in scioltezza, quarta col quarto tempo d'ingresso, così come quarta era stata nei 1500 metri. Avrà quindi Alessia la stessa corsia, la 6 di quella cavalcata trionfale, miglior tempo di qualificazione l'8, 20 e 53 della primatista del mondo e campionessa olimpica Rebecca Adlington, e per Alessia 8:24.03 alle spalle anche della Jackson 8:20.80 e della Potec, la romena 8:22.03. Insomma, viene da dire un po' le solite note a giocarsi questa medaglia, perché sono le stesse protagoniste degli 800 e un po' e dei 1500 e dell'intera specialità. Se questi sono i valori di forza, quello che abbiamo visto un paio di giorni fa ben sperare. Non c'è dubbio. Saluto e ringrazio anche Stefano Arcobelli, firma di punta della Gazzetta dello Sport sul nuoto. Ciao Stefano. Ciao. Vorrei partire dal punto di oggi, scomoda, sincera Federica, in cui tu scrivi, insomma, Federica della discordia, almeno ieri nella staffetta, non si smentisce mai, come tu sottolinei, dice sempre senza troppi filtri quello che pensa e soprattutto fa molto discutere dentro e fuori il clan azzurro, Federica. Sì, sicuramente è la donna che ci fa lavorare tanto, diciamola sì. Così, perché comunque fa discutere, fa diciamo anche gioire, fa patire, fa soffrire, perché spesso all'inizio anche non era una che vinceva tanto, ora invece vince sempre, e diciamo molto sinceramente le perdoniamo anche qualche eccesso di verbale, perché probabilmente in questa vicenda e anche in quella della italiana più grande di sempre un po' è ecceduto, però non le si può dire niente in questo momento a Federica, perché se possiamo parlare di grandissime emozioni lo dobbiamo sicuramente a lei, che ha fatto delle cose strepitose in questi giorni. Ma ha fatto bene o ha fatto male ieri a reagire in quella secondo maniera? Secondo me, per una questione di rispetto delle compagne, ha fatto male. Nel senso che c'è un limite c'è un limite a, a, come dire, alle critiche, perché è chiaro che il suo senso di superiorità... C'è un limite alle critiche pubbliche, secondo me. Diciamo, Stefano, come dice Castagnetti, probabilmente i panni sporchi si lavano in famiglia. Sì. Però era lei talmente arrabbiata, perché per questa ci teneva così tanto a questa medaglia, che aveva rinunciato ai 100 stile libero individuali. Quindi sostanzialmente si era preclusa, no, la possibilità di far bene in quella gara. Sì. Per cui la delusione era doppia, e allora lei dice: ma perché io devo sacrificarmi, devo rovinare il mio programma, il mio progetto per cercare di far vincere le altre ragazze, e poi le altre fanno sempre i soliti tempi, cioè non crescono mai. Dario Ricci, secondo te ha fatto bene o ha fatto male? Ma in quei toni forse a mente fredda può aver fatto male, però credo che alla fine anche questi schiaffi facciano crescere. Probabilmente lei è talmente in forma, talmente carica in questo momento, che si sente praticamente onnipotente di poter arrivare a qualsiasi traguardo. E allora non accetta che magari logiche diverse, modalità di lavoro, applicazioni diverse possano in qualche modo frenarla in questo senso, e sa anche che in questo modo forse può trascinare le altre a cambiare qualcosa, soprattutto nella testa, nell'attitudine, nel modo di affrontarli questi appuntamenti. Sì, perché come dicevamo ieri, sennò può prevalere l'effetto Maradona, l'effetto Ibrahimovic, nel senso buttiamo la palla là davanti, tanto c'è il fenomeno, vediamo se riesce a cavare le castagne dal fuoco. In questo senso l'appunto può starci, però ripeto un appunto, che forse era meglio chiudere in quattro mura degli spogliatoi, anche se insomma di banalità poi alla fine nello sport, e trattando di sport ne sentiamo fin troppe, banalità pubbliche. Quindi se una volta che troviamo qualcuno che esce dalle righe, siamo qui a discuterne con grande piacere. Paolo da Milano, buongiorno, lei che ne pensa? Buongiorno, mi ricollego a quello che dice lei, perché volevo sottolineare invece la freschezza che ho trovato nelle dichiarazioni di tutti i nuotatori. Ha visto? La mancanza di ipocrisia o di scaramanzie, di sovrastrutture tipiche di altri sport. Quindi dire: voglio vincere, il mio rivale è quello, oppure l'altro è stato meglio di me, come ha detto Rosolino non più tardi di 5 minuti fa, o l'altro merita più di me. Bello, una bella freschezza di testa e di linguaggio. Ho trovato un bel paragone positivo verso altri sportivi o altri sport molto più paludati o ipocriti o finto scaramantici. Beh, ma vede, Stefano Arcobelli, che è qui presente telefonicamente, scrive: anche il suo pungolare per motivare è stata una scossa a cui il mondo del nuoto non è abituato, perché prevale spesso l'ipocrisia di un sorriso ammiccante ma falso, anziché un confronto duro, sincero e riparatore. Stefano, un discorso si può estendere, no? Anche al di fuori dei confini del nuoto, dicevamo. Io infatti, rispetto al lettore, sono d'accordo sul fatto che è vero che il nuoto sta lanciando messaggi, anche personaggi freschi, divertenti, belli, vincenti e sorridenti, però è anche vero che poi il successo complica un po' le cose. Cioè, io che seguo il nuoto da oltre 10 anni vi posso dire che non è lo stesso nuoto dell'inizio dei Rosolino, dei Fioravanti, dove secondo me c'era molta più sincerità. E quindi io preferivo quello. Però infatti il ritorno di Federica scomoda, certamente probabilmente a me è servito a far ritornare quel tipo di situazioni che succedevano durante, non so, le Olimpiadi di Sydney. E quindi diciamo che il glamour, il mondo degli sponsor ha migliorato certamente il livello del nuoto, però deviando un po', diciamo che non dobbiamo prendere la parte negativa del calcio. Certo, e la mia paura è dubbio. Che sia... siamo quasi un po' borderline adesso. E un po' sì, un po' troppo chiacchiere, un po' troppo gossip, un po' troppo marketing, eccetera, eccetera. Grazie Stefano, a presto, ci sentiamo, grazie. Buon lavoro. Dario Ricci, stasera che gare ci sono per chiudere? Beh, stasera puntiamo forte soprattutto sui 200 rana uomini, con Facci e Giorgetti in finale con il sesto e l'ottavo tempo. Grandi favoriti l'australiano Ricard e l'americano Chanteau, ma chissà mai che veramente questo italo-nuoto al maschile non riesca in una delle imprese meno pronosticabili e attese, Carlo. Non c'è dubbio, ti aspettiamo nei GR del tardo pomeriggio e della sera per le dirette su queste gare. Grazie Dario Ricci, grazie Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadone in regia. Ci sentiamo con lo sport domenica dalle 18 alle 19. Vi aspetto qui. Buona serata. Facile da scegliere e facile da avere. È Nissan Pixo GPL. Tu allo stesso prezzo del benzina. Da 5.790 euro con rottamazione. Nissan Pixo. Welcome to Simplicity. Vi ha presentato. Roma 2009, Mondiali di nuoto.